piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi viviamo anni nei quali il cinema italiano soffre un po', il pubblico va a vedere i film americani pieni di effetti speciali, con attori che poi rivede, non so, sul web con le loro bellissime mogli. Insomma, il cinema italiano vive un momento non esaltante, eppure c'è stata una stagione nella quale dei registi italiani hanno insegnato a tutto il mondo il valore di un cinema fatto di piccole storie, ma di storie vere, niente di consolatorio, non necessariamente un lieto fine, anzi, stiamo parlando del neorealismo, che ha contribuito intanto a svegliare le coscienze italiane, a guardare senza filtri rosa il faticoso periodo del dopoguerra, quando erano crollate tutte le certezze, erano crollate insieme ai palazzi, non rimaneva altro che ricostruire non solo una nazione, ma anche un'identità. I nomi di questi artisti li conoscete tutti, primo tra tutti Roberto Rossellini, sono nomi che hanno varcato i confini del nostro paese, sono diventati famosi in tutto il mondo, sono stati presi come punto di riferimento da grandi registi, soprattutto in America. Per esempio, sentite cosa dice John Landis, il regista dei Blues Brothers. Hanno avuto un'influenza tremenda se consideri film neorealisti come Ladri di biciclette e Roma città aperta. E poi guardi i film americani, le produzioni hollywoodiane come il film di Kazan, Panic in the Streets, hanno avuto davvero un forte impatto sul cinema americano. Ma come disse Orson Welles, per l'Italia il neorealismo è prima di tutto Rossellini. Per l'America invece il primo nome che viene in mente è quello di Vittorio De Sica, e noi parleremo proprio di lui oggi. De Sica è stato un uomo complesso, poliedrico, con una vita affollata, da prima attore teatrale, poi interprete di grandi commedia all'epoca dei Telefoni Bianchi, e poi regista. Carlo Lizzani diceva di lui: riusciva a far diventare importanti le cose piccole, a dare un senso profondo alle vicende più quotidiane, quello che io spesso cerco di fare, insomma, quando scrivo canzoni. È il momento più alto, quando riesci a guardare una cosa da un altro punto di vista. Ecco, attraverso le cose piccole De Sica ha lanciato una grande rivoluzione nel cinema italiano, ha creato capolavori come Chouchat, Ladri di biciclette, Umberto D, capolavori che gli sono valsi 4 Oscar al miglior film straniero. Sarà forse per questo che il suo nome è scolpito nelle menti degli amanti del cinema statunitense. Sì, sono piccole voci le mie, i miei film, che vogliono appunto essere un frutto di riflessioni sul momento che io vivo. Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica nasce il 7 luglio del 1901 a Sora. Oggi è Sora, in provincia di Frosinone, ai tempi era parte della Campania. Ed è alla Campania e a Napoli che Vittorio e la sua famiglia sentono di appartenere, anche perché la madre Teresa è napoletana. Malgrado tutti questi nomi che lascerebbero immaginare, insomma, nobiltà e danaro, in realtà il padre è un modesto funzionario della Banca d'Italia. Si chiama Umberto, peraltro, a lui che De Sica dedicherà uno dei suoi film più belli e commoventi, lo abbiamo citato prima, Umberto D. Il padre del futuro regista è comunque un creativo, un uomo attirato dall'arte, pieno di iniziative, suona il pianoforte, scrive su un giornale locale con lo pseudonimo di Caside, o Caside, comunque l'anagramma di De Sica, ha una scrittura brillante, acuta, insomma è un perfetto maestro per il figlio, che con lui ha un rapporto profondo, sincero, insomma di fatto la sua è una famiglia felice, anche se, come raccontò in seguito De Sica, vivevano in una tragica e aristocratica povertà. Dopo la nascita di mio fratello, mio padre venne trasferito a Napoli. A quell'epoca Napoli era una città superpopolata ed era difficile trovare un'abitazione decente. Ci dovemmo rassegnare a sistemarci in una casa vecchia e cadente, in una strada alquanto equivoca che si chiamava Via dei Martiri d'Otranto. Era una via piuttosto stretta e nell'edificio di fronte a quello dove eravamo andati ad abitare c'era una casa di tolleranza. E con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale i De Sica si spostano a Firenze per poi fermarsi definitivamente a Roma. In questo periodo nasce la passione di Vittorio per il teatro e per la canzone. Lui ha una bella voce che mette al servizio dei feriti di guerra, cantando per loro le canzoni napoletane dell'epoca, come Sospiranno, per esempio. Dunque, Sospiranno, le dico, è una canzone del 1909, quindi quasi parla secoli. Io la cantavo nel 1916, avevo 15 anni, e cantavo questa canzone insieme alle altre canzoni napoletane, cantavo questa canzone a tutti i feriti della guerra negli ospedali di Roma, e mi accompagnava al pianoforte mio padre. E grazie all'intercessione di un amico di famiglia, a 17 anni Vittorio recita in un film muto chiamato Il processo Clemenceau. È una comparsata, sono i primi passi di una carriera che durerà 60 anni. E intanto il futuro regista termina gli studi di ragioneria. Il padre è comprensivo, è artista, però gli chiede comunque di prendersi il pezzo di carta, il diploma. Il figlio lo accontenta, però nello stesso tempo frequenta gli ambienti teatrali, quando nel 23 ha l'opportunità di seguire una compagnia teatrale. Non si fa pregare, per 2 anni fa il generico nella prestigiosa compagnia di Tatiana Pavlova. Insomma, segue la classica gavetta: prima generico, poi secondo attore brillante, poi secondo attore giovane, fino alla conquista del ruolo di primo attore. Sì, perché nel teatro, soprattutto in quegli anni, c'erano delle gerarchie precise, nessuno veniva promosso così a caso perché magari aveva fatto un reality show l'anno prima. Siamo nel 1930, De Sica è primo attore da 29 anni. Quell'anno viene notato dal regista Mario Mattioli, che lo vuole nei mitici spettacoli Zaboom. Sono spettacoli di rivista che però si avvalevano della professionalità di attori di prova, e sotto la direzione di Mattioli De Sica comincia a diventare famoso. È un duo comico con l'attore Umberto Melnati. Le cose vanno così bene che nel 1933 finalmente decide di fondare una sua compagnia teatrale con 2 colleghi del teatro Zaboom, Sergio Tofano il Grande. E qui una puntata su Sergio Tofano andrà fatta prima o poi, perché lui è stato un grandissimo attore, ma anche inventore e illustratore del mitico signor Bonaventura, quello del Milione, con lo pseudonimo di Sto. E l'altro collega, in realtà una collega, è un'attrice, Giuditta Rissone. I due poi si sposeranno e avranno anche una figlia, Emilia, che nascerà nel 1938. Ma la carriera di De Sica non è solo a teatro. In mezzo alla fase del secondo attore brillante e a quella del primo attore, c'è anche il cinema, che lo vede interpretare prima dei ruoli nel muto, come La compagnia dei matti del regista Mario Almirante, peraltro padre del futuro politico Giorgio Almirante. Ho fatto La compagnia dei matti e mi rovinai la reputazione di attore bello, diciamo così. Il truccatore mi truccò talmente male, mi mise i baffi alla cinese, e io, con quel nasone e molto magro, ero talmente brutto come amante di quella povera Elena Lunda, protagonista del film, che Pittaluga, l'allora padrone assoluto del cinema italiano, decretò che io non sarei mai più entrato in uno studio cinematografico. Poi arriva il sonoro, tutto cambia, ma nel caso di De Sica cambia in meglio. C'è un nuovo sodalizio, questa volta con il regista Mario Camerini, che produce film famosi come Uomini che mascalzoni, Il signor Max, I grandi magazzini, storie semplici, romantiche, piccolo borghesi, rassicuranti, in fondo storie che in qualche modo raccontano la vita di De Sica, dalla famiglia del bancario Umberto, suo padre, la madre casalinga, anche lui sposato e padre di famiglia. Queste storie semplici, però De Sica sa sempre aggiungere una sua allegria. Lui è, insomma, il piacione di classe per eccellenza del cinema italiano, di un secolo di cinema italiano. Lui ha sempre questo sorriso pronto, al gusto della battuta, dello sberleffo. E poi le sue canzoni, che diventeranno delle vere e proprie hit, come per esempio Parlami d'amore, Mariù. Grandi magazzini è del 1939, e lo stesso anno, grazie all'aiuto di un potente produttore dell'epoca, De Sica per la prima volta si siede dietro alla macchina da presa, dirige il suo primo film. È una commediola, si chiama Rose Scarlatte, però va avanti a girare film con titoli simili fino al 42. Tra questi titoli però ce n'è uno che spicca, è delizioso, si chiama Teresa Venerdì. poi nel 1943 cambia qualcosa, perché inizia la collaborazione con un uomo al quale De Sica abbinerà il suo nome per gli anni a venire. Formeranno una delle coppie, forse la coppia più prolifica dell'intero cinema italiano di quei decenni, Cesare Zavattini. E l'incontro tra i due è un incontro di sensibilità simili, di uomini che vivono nel loro tempo, ben consci che è un tempo che sta cambiando in un modo irreversibile. Quando si vedono per la prima volta, per esempio, siamo nel 39, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e De Sica coinvolge Zavattini nella sceneggiatura di Teresa Venerdì. Poi però la loro collaborazione cambia segno, e perché di lì a poco tutta l'Italia sarebbe stata sconvolta dai lutti, dai morti, dalla distruzione, dalla fame. Non si poteva tacere, non si poteva far finta di niente. Questo lo capiscono entrambi, hanno la necessità di dare voce alla realtà delle cose. E Zavattini e De Sica erano nati per incontrarsi, sono i Lennon e McCartney del cinema italiano. E dopo anni di garbate commedie, telefoni bianchi, le commedie di Mario Camerini, bisogna cambiare, bisogna dare un altro occhio al cinema e quindi alla realtà. Lui non ne può più di finali positivi, di sentimentalismi, di piccole storie d'amore che sembrano essere l'unico possibile racconto in un film. Insomma, con Zavattini e in Zavattini De Sica scorge una potenza narrativa e anche una, come dire, una rettitudine intellettuale. Queste sono parole che oggi si usano molto raramente, rettitudine intellettuale, segniamocela. E tutto questo lo conquista. Quello che lo affascina è la capacità di Zà, come lui lo chiamava, di leggere le cose senza contribuire a renderle più tragiche o più belle, fotografare la realtà. Insomma, loro si fanno questa domanda: ma perché usare personaggi, storie fittizie, quando bastava soprattutto in quegli anni guardare fuori dalla finestra e trovare storie vere, reali, più poliedriche di quello che la fantasia può partorire? E se poi tutto questo è calato in una realtà così terribile come quella della guerra e del dopoguerra, perché nascondere la realtà al pubblico? Come Zavattini, De Sica sente il bisogno di parlare per me della realtà, lo fa fino in fondo, abbandona la sua carriera d'attore e intraprende quella del regista. L'obiettivo mi interessava ogni giorno di più. Dire oggi che fin da quel momento io pensassi al realismo sarebbe forse presunzione, ma è verità che io avevo già intuito la possibilità di portare la macchina da presa fuori dagli stabilimenti, all'aria aperta, ovunque fosse la vita degli uomini. E l'occasione arriva con un soggetto di Zavattini, I bambini ci guardano, 1943, siamo in piena guerra, ma la collaborazione è di quelle d'oro, rivela ai due uomini di avere obiettivi comuni, caratteri affini, diversi, complementari. Zavattini è irruente, entusiasta, ha una carica inesauribile, De Sica ha occhio per l'immagine, ha una capacità magica di dirigere gli attori, soprattutto quelli che attori non sono, gli uomini presi dalla strada, quelli che tanta parte avranno nei film che la coppia costruirà negli anni a venire. Ci sono due categorie di registi, ci sono i registi bravissimi, meravigliosi, i registi che hanno una proprietà, hanno veramente un'abilità tecnica, diciamo così, formale, di tecnica cinematografica, e ci sono altri registi invece che fanno recitare bene gli attori. Io faccio parte di questa seconda categoria. Io di tecnica, cioè, me ne intendo e faccio la tecnica la più semplice e la più modesta, la più semplice che esista. Tant'è vero che voglio sempre che non appaia la macchina cinematografica, ossia che il pubblico non si accorga che c'è un obiettivo, una macchina. Cerco di portare il pubblico nel luogo dove io sto girando la mia scena e i miei attori, i miei personaggi agiscono. Ossia, cerco di introdurre il pubblico nell'ambiente in cui i miei personaggi vivono. E poi curo molto la recitazione. E tra gli attori improvvisati, quelli che tanto piacciono a De Sica, ci sono soprattutto i bambini, e lui lo dimostra nel 1946 con il film Sciuscia. Però bisogna andare per ordine, perché bisogna ricordarsi che durante la guerra il cinema di regime, anche con delle ottime punte qualitative, si era spostato da Roma a Venezia, cioè la Repubblica di Salò voleva che si dicesse che che l'arte era lì. De Sica non ci va a Venezia e si rifugia, per così dire, in Vaticano, perché nel 1943 gira un film proprio per il Vaticano, La Porta del Cielo. Riesce a coinvolgere Zavattini nel progetto e intanto gli alleati stanno risalendo la penisola e De Sica astutamente tira in lungo le riprese il più possibile per rimandare la fine della lavorazione e quindi un inevitabile trasferimento al nord. Riesce nel suo intento, evita quindi di allinearsi a quel cinema ufficiale che era però anche pericoloso, qualcuno ci morirà per essere andato al nord a fare il cinema. E poi finalmente la guerra finisce e lui è pronto a spiccare il volo, e l'occasione arriva con Chouchat. E non solo con questo film, nasce una corrente espressiva che cambia il cinema italiano in maniera totale, e qua bisogna dire anche grazie alla maturità del pubblico, perché oggi che ci sentiamo dire tutti noi, cantanti, registi, artisti, ma la gente si vuole distrarre, la gente ha lavorato e quindi bisogna darle delle cose leggere. Ecco, allora il pubblico era molto più maturo di quanto non sia oggi, forse perché non c'era la televisione, non c'era questa televisione. Insomma, nasce il neorealismo. Emilia De Sica, che è la primogenita di Vittorio, racconta in toni molto prosaici un aneddoto che coinvolge De Sica e Roberto Rossellini. Papà mi raccontava un episodio di una volta che era domenica e lui non aveva macchina a quell'epoca, andava in bicicletta e passava per Piazza di Spagna e ha visto Roberto seduto sulla scalinata che prendeva il sole. Allora si è fermato: Robè, che stai a fare? Devo fare un film con Anna, e poi ho preso per la parte di un prete, una parte drammatica, un comico che si chiama Fabrizi. Ah, e tu che stai a fare? Io voglio fare un film su dei bambini, sugli Chouchat, che puliscono le scarpe a Via Veneto. Vabbè, ciao Roberto. E papà dice: in quel momento era nato il neorealismo. Shoeshine, lustra scarpe in inglese, la traduzione in dialetto è Chouchat. E i protagonisti erano due Chouchat, Pasquale e Giuseppe, che puliscono da mattina a sera le scarpe dei soldati e lo fanno per guadagnarsi da vivere. La loro storia è una storia senza speranza, è divisa tra i loro sogni e quelli di questa Roma priva di aspettative, la Roma del dopoguerra. Bene, il pubblico è conquistato da questo film ed è conquistata anche la critica, straniera. Per la prima volta, stiamo parlando del 1946, alla cerimonia degli Oscar a Hollywood viene istituito un premio speciale proprio per poterlo dare a Chouchat, con questa motivazione: la qualità di questo film, nato palpitante di vita in una nazione devastata dalla guerra, dimostra al mondo che lo spirito creativo può trionfare sulle avversità. È una motivazione bellissima. Hollywood, distribuzione degli Oscar, il più ambito premio cinematografico internazionale. Ed ecco gli Oscar in partenza per il mondo. Mr. Murray, addetto culturale degli Stati Uniti, riconosce il contributo estetico del realismo italiano. Consegna del diploma a Zavattini e Viola, soggettisti con Amidei e Franci di Chouchat. De Sica, regista, riceve le congratulazioni dell'ambasciatore. Gli Chouchat sorridono. Il famoso cavallo del film si è trasfigurato in questa statua. Beh, un trionfo. Ricordiamoci che nel 1946 l'Italia era una nazione in ginocchio e anche trattata malissimo da tutte le altre potenze, quindi in qualche modo De Sica ha fatto una cosa grande, ha ottenuto una cosa grande, e poi alla fine l'Oscar per il miglior film straniero praticamente è stato inventato per De Sica. Inizialmente è un premio speciale, dopo due anni la coppia Zavattini-De Sica fa seguire a Chouchat un altro film capolavoro, e allora il premio subisce la sua prima trasformazione, diventa onorario per diventare nel 57 un vero e proprio Oscar, quando viene vinto per due anni di seguito da Fellini, il cinema italiano che faceva man bassa di premi. Che bei tempi. E in tutto De Sica vince 4 Oscar per il miglior film straniero, più una nomination per Matrimonio all'italiana e una nomination come miglior attore non protagonista nel film Addio alle armi. Il falco e il gabbiano. stiamo parlando di una delle colonne di quel cinema italiano e quindi del cinema italiano, Vittorio De Sica, attore, cantante, soprattutto regista, perno di quella meravigliosa stagione che ha visto il cinema italiano regalare al mondo, lui, Rossellini, Visconti, Antonioni e tanti altri, insomma il periodo del neorealismo. Lui era nato a Sora, in provincia di Frosinone, in una modesta famiglia, di sentimento napoletano però. De Sica è napoletano mentalmente, è un uomo complesso, ha un sorriso aperto, una grande allegria che però nasconde anche una vita di contraddizioni. Nato nella piccola borghesia, recita spesso le parti di aristocratico. Lui è un attore di commedie brillanti e anche superficiali all'inizio, e poi sente questo bisogno meraviglioso di aggiungere emozione e verità al cinema. Si mette dietro alla macchina da presa e diventa uno dei più grandi registi italiani. Molti dicono che il neorealismo fu un bisogno di risparmiare. Non è vero. Fu un bisogno di dire la verità, il coraggio di dire la verità e quindi di portare la macchina da presa non più nelle vecchie costruzioni di cartapesta di Cinecittà, ma nella vita, nella realtà dove vivono gli uomini, dove veramente vivono gli uomini. E il risultato è un cinema nuovo, fresco anche nei momenti più tristi, un cinema onesto, pieno di affetto per i suoi protagonisti, mai consolatorio ma sempre pieno di quella pietas, come direbbero i latini, cioè la voglia di capire, di essere vicini ai deboli. E d'altra parte l'Italia è debole in quel momento, è distrutta, è affamata. I film che De Sica realizza con Zavattini sono lo specchio fedele di una nazione che dopo decenni di regime e soprattutto dopo gli anni terribili della guerra è una nazione che è rimasta devastata, è un paese che si è trovato nudo di fronte alla realtà e che però ha trovato la forza di riscattarsi. È la grande onestà intellettuale, l'impeto di cambiamento di Zavattini che si unisce alla capacità di tradurre in immagini questo sentimento che aveva De Sica. Insomma, tutto il bagaglio di esperienze, di sofferenze italiane hanno trovato in loro una sua dignità nel racconto cinematografico. È un racconto che prosegue con un nuovo grande film nel 1948, Ladri di biciclette. Oggi Ladri di biciclette è considerato uno dei film più importanti della cinematografia mondiale di sempre. Eppure è una piccola storia, una successione di quadri pensati soprattutto per mostrare il vero volto di Roma negli anni del dopoguerra, la difficoltà della povera gente di mantenersi dignitosa. De Sica crede in questa storia, vuole evitare ingerenze. Pensate che una casa di produzione americana che era disposta a investire nel film gli propone Cary Grant nella parte del protagonista. Lui non vuole, ci mette i suoi soldi. E sì, perché Cary Grant avrebbe cambiato la storia di questo film. Lui vuole altri attori, non professionisti anche. Sceglie per la parte dell'attacchino Antonio Lamberto Maggiorani, che era un operaio della Breda di Roma. Per interpretare il figlio Bruno, dopo molti provini, trova Enzo Staiola, che viene scelto per degli occhi azzurri espressivi per la sua camminata. Anche questa volta la critica ha osannato il film. All'indomani della prima, Mario Soldati scrive a De Sica: carissimo Vittorio, ora ti dirò una cosa, tu albeggi, noi tramontiamo, telefonami, soffro, ciao. Pensate, allora quelli che recensivano l'arte erano persone come Mario Soldati. E il film all'inizio non piace, intanto non piace al Vaticano, l'Osservatore Romano chiede che il film venga sequestrato per offese alla morale e alla religione, e non piace neanche alla sinistra, che sente tradita la sua ideologia in un film dove il lavoratore non trova aiuto da parte di nessuno, tantomeno dal partito, e quindi insomma la sinistra ha paura di far brutta figura. Non piace neanche tanto al pubblico, che alla prima presentazione addirittura fischia la pellicola. La solitudine del protagonista e del figlio fa male a troppi, questa è la verità. E anni dopo De Sica scriverà così: le sofferenze, le miserie contengono un tossico e un farmaco assieme. Nel dolore gli uomini tornano per una intrinseca esigenza dello spirito a quelle verità fondamentali e lontane che sono alla base della nostra cultura, della nostra fede, della nostra natura. E forse per alleggerire la tensione, forse per omaggiare Zavattini che ha scritto un libro intitolato Totò il Buono, ma forse perché la verità la si può raccontare anche in un altro modo, De Sica realizza un film diverso, un po' più onirico, più felliniano se vogliamo, Miracolo a Milano, che viene presentato nel 51. Arrivato a Roma, Miracolo a Milano, nuovo film di De Sica. Le prime del cinema sostituiscono per noi quelle che furono nell'Ottocento le prime dei melodrammi. Personaggi in platea, Silvana Mangano con De Laurentiis. Un film già nell'atrio, da intitolarsi Celebrità nella Fiumana. De Sica è rimasto nell'atrio, l'eco del sonoro gli annuncia la fine. Ed ecco com'è andata. Gli applausi compensano un uomo che ha saputo costantemente affinare il suo felice istinto in una acuta intelligenza di artista. Ma il cinema è un lavoro che non dà tregua. Con Zavattini, De Sica sta visionando i provini per il prossimo film. Vorremmo qualche impressione non sui provini, ma sulla prima romana. Io desidero parlarvi di Miracolo a Milano. Devo dirvi innanzitutto che il più bravo fra tutti noi, dal soggettista, il regista, dagli attori, dai critici, è stato il pubblico, che ha capito tutto, proprio tutto. Ogni più piccola sfumatura. E questa è una grande soddisfazione per un artista. Ma anche questa volta, quando Miracolo a Milano esce, gran parte dell'establishment lo considera un film eversivo. E i protagonisti sono dei barboni e un orfanello che partono alla ricerca di una vita migliore. La pellicola viene premiata al Festival di Cannes, ma in Italia non viene capita, non viene capito lo spirito con il quale Zavattini ha scritto la sceneggiatura. Questa volta vuole giocare un po' di più Zavattini, gioca sull'invenzione astrusa, sulla favola, e il che non vuol dire esagerare la realtà, ma vuol dire semplificarla. Soprattutto è la ricerca della bontà che interessa Zavattini. Mi sono convinto che nel film c'è qualcosa che accomuna tutti. Un desiderio di bontà e l'immensa tristezza che deriva dall'essere la vita com'è e non come dovrebbe essere. Il falco e il gabbiano. Siamo nel 1951, Vittorio De Sica ha appena realizzato il film Miracolo a Milano, la favola che si è conclusa con l'immagine surreale del ragazzo Totò e dei suoi compagni che a cavallo delle scope volano sopra il Duomo. Tra l'altro è proprio questa scena che ha ispirato Spielberg quando ha girato quella dei ragazzini che volano sulle loro biciclette nel film E.T. È un periodo proficuo per De Sica. Lui ha 50 anni, ha già conquistato la fama, 2 premi Oscar, o premi speciali come si chiamavano allora, sia per Sciuscià che per Ladri di biciclette. Eppure lui, che è un uomo apparentemente vincente e forte, conosce meglio di chiunque altro le debolezze, le fatiche della gente. Dopo aver realizzato quelli che vengono considerati i pilastri del cinema neorealista, insieme a Roma, Città Aperta di Rossellini, lui si ritrova non più ricco, non più giovane, non più popolare di quando faceva le commedie dei telefoni bianchi. Nel frattempo lui ha una famiglia da mantenere, anzi per la verità 2, la figlia Emilia, nata dal primo matrimonio con Giuditta Rissone, poi ci sono Manuel e Cristian, i figli avuti dall'attrice catalana Maria Mercader, che lui aveva incontrato sul set nel 42, e per tutta la vita lui non rinuncerà a nessuna delle 2 famiglie, aveva l'abitudine di festeggiare 2 volte i Natali, le Pasqua e i Capodanni, e in un tentativo, forse maldestro, ma per quanto mi riguarda ammirevole, di fare tutti felici e anche un po' di sorprendere i suoi figli, lo racconta Cristian De Sica in questa intervista. Mio padre mi ha fatto a 50 anni ed è stato fantastico avere un papà grande. Poi ha fatto tanti figli mio padre, cioè io ho scoperto che lui si innamorava di tante donne, e però ogni volta che si innamorava diceva facciamo un bambino. Io ho scoperto di avere mia sorella a 18 anni perché mi ha chiamato e mi ha detto sono Emi De Sica. Ah, e tu sei Cristian? Sì. Ci vediamo a Villa Glori e ci siamo incontrati perché papà non aveva il coraggio di dire oh, c'è un'altra figlia così. Oltre a questo menage che è già molto costoso, De Sica non fa mistero di essere una appassionato giocatore e anche di essere uno dalle fortune alterne. Così agli inizi degli anni 50 si trova a cercare ancora lavoro come attore per rimettere in piedi le sue finanze dissestate e incontra sulla sua strada, per sua fortuna, un altro grande, il regista Alessandro Blasetti, che sta girando un film a episodi intitolato Altri Tempi. In uno di questi episodi, Il processo di Frine, De Sica conquista una grandissima popolarità e fa l'avvocato difensore di Gina Lollobrigida. È un episodio nel quale per la prima volta viene usato il termine maggiorata fisica. Dunque dicevo, Maria Antonia fa parte del panorama, come i fiumi, i laghi, i monti. Condannandola, voi mettereste dietro le sbarre una parte essenziale del nostro meraviglioso paesaggio. Che cosa direbbero gli stranieri se noi mettessimo in carcere il Vesuvio? Oh, ci avesse mai pensato. Gesù, benedetto che la mamma me l'ha fatto! E voi dovete fare? Voi dovete mettere in carcere il Vesuvio. Questo vuole la vostra giustizia. Ma d'altra parte, non è questa stessa nostra legge che prescrive siano assolti i minorati psichici? Ebbene, perché non dovrebbe essere assolta una maggiorata fisica come questa formidabile creatura? Well, I rang up Pantucci, spoke to Lucia, gave them all they needed to know. If affairs are proceeding as we're expecting soon enough, the weak spots will show. I assume you understand that we have options on your time, and we'll ditch you in the harbor if we must. Come attore De Sica fa centro molte volte con diversi ruoli diventati famosi: il generale della Rovere e di Rossellini, il maresciallo Caro Tenuto in Pane, Amore e Fantasia e anche in altri film, come in Cine era il regista, e poi anche ruoli improbabili come quello di Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete del regista Paul Morrissey, film peraltro ideato da Andy Warhol. Però la sua vera passione è sempre la regia. Dopo Miracolo a Milano gira la quarta colonna della sua quadrilogia neorealista, Umberto D, che dedica appunto al padre Umberto. È una storia meravigliosa e terribile, la storia del dignitoso professore in pensione che non sa come sbarcare il lunario, e questa volta viene interpretata da un attore non professionista, un vero professore di glottologia di Firenze che si chiama Carlo Battisti. Dicono che io faccio recitare i sassi, non è vero, perché qualcosa devono avere per forza. Anche Umberto D, il professor Battisti dell'Università di Firenze, che venne a fare Umberto D, non sapeva far niente, ma poco a poco io ottenni la sua fiducia, la sua convinzione del personaggio, di tutto quello che lui doveva dire e fare. Glielo facevo vedere, levavo quello che c'era di mio e davo a lui la sua, cercavo di dare la sua personalità, i suoi difetti. Quindi questo mi è dovuto alla mia esperienza teatrale. Io, prima di essere regista e prima di essere attore cinematografico, ho un'educazione teatrale di molti anni. Io ho cominciato nel 23 a recitare e siamo oggi al 72 e sono ancora attore. E anche questa volta diciamo che il governo non è felice di questa rappresentazione senza sconti sull'Italia, che fa fatica a star dietro al sogno di progresso. Andreotti, che nel 52 era sottosegretario con le deleghe per lo spettacolo, scrisse una lettera diventata famosa. Vi leggo uno stralcio: se è vero che il male si può combattere anche mettendone duramente a nudo gli aspetti più crudi, è pur vero che se nel mondo si sarà indotti erroneamente a ritenere che quella di Umberto D e l'Italia della metà del secolo XX, De Sica avrà reso un pessimo servizio alla sua patria. Eh certo, bisogna sempre parlare bene e nascondere la polvere sotto al tappeto, questa è un'abitudine tutta italiana. De Sica però va avanti per la sua strada, dicono che fosse comunista, non lo sappiamo, secondo me era ben oltre, era uno che amava il suo prossimo e amava l'arte, il cinema, e riteneva conciliabile le due cose. Ha una coscienza politica, sicuramente, ha poca simpatia per la DC, che lo accusa di fare film che danno una cattiva immagine dell'Italia, e in una lettera alla figlia Emilia lui scrive così: la vera, autentica forma di governo sarebbe quella che si ispira ad un sano, autentico socialismo. Ma la democrazia non esiste né in Italia né in Francia né in America. Il capitalismo ha invaso il mondo e in Inghilterra ci sono i poveri più poveri del globo. La collaborazione con Zavattini continua con la produzione nel 60 della Ciociara, con la meravigliosa interpretazione di Sophia Loren. Vince l'Oscar lei come miglior attrice protagonista, e ancora una volta De Sica e Zavattini si confermano non solo come la coppia in grado di firmare opere di grandissimo valore artistico, ma soprattutto come quelli in grado di esportare uno stile italiano in tutto il mondo. Due uomini che insieme hanno inventato un linguaggio che ha saputo diventare eterno. Sentite quello che scrive De Sica a Zavattini. Ricordo che qualcuno ci diceva, leggendo il copione, questo non è cinema. Nessuno di costoro amava Il tuo cavallo bianco di Chouchat e non volevano che il racconto finisse così tragicamente, e nemmeno volevano che il furto di una bicicletta creasse così tanto dolore e che gli altri tuoi personaggi, Totò il Buono o il vecchio Umberto, disturbassero il quieto vivere di una collettività che aveva già dimenticato la guerra. Con la Loren e con Zavattini, De Sica conquista anche il suo terzo Oscar, 1965, Ieri, Oggi e Domani, e nel 72 arriva l'ultimo, il quarto, con Il giardino dei Finzi Contini, tratto da un romanzo di Giorgio Bassani, un film sulla deportazione di una ricca famiglia ebrea a Ferrara. Solo due anni dopo, nel 74, De Sica si spegne in ospedale vicino a Parigi, aveva preso la residenza lì. Si spegne per i postumi di un'operazione fatta per curare un cancro al polmone. Vi lascio con una canzone bellissima che lui cantò a Canzonissima, e sì, perché in quegli anni gli ospiti del sabato del varietà televisivo erano persone come De Sica, e mi sembra sia un bel saluto questo. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto. Qui De Sica ha volato veramente in alto e ha fatto volare in alto tutto il cinema italiano assieme a Zavattini, quindi una coppia che in qualche modo ha segnato la storia. E poi un grandissimo personaggio istrionico, affascinante, insomma uno di quei personaggi per i quali puoi dirti fiero di essere italiano. Se volete mandarci dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui miei, sui nostri social, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.